un paese lontano, forse dal Perù o dal Messico strano. Sei provocante, ricca di folle ardore, sei stravagante e sai tentare il cuore, porti con te un non so che piace a me. La pacca è la rumba fatale, un frenetico mal che danzando s'attacca. La pacca ha del pepe il brucior, della fiamma il calor che s'accende nei cuori. La pacca come l'onda del mar vi farà dondolar, è una danza che spacca. La pacca è un sussulto d'amor, una febbre d'ardor che trascina il piacere. Oh, bella signorita, dolce mia chiquita, il danzar ti invita. La pacca è la rumba fatale, un frenetico mal che danzando s'attacca. La pacca ha del pepe il brucior, della fiamma il calor che s'accende nei cuori. È la rumba fatale, un frenetico mal che danzando s'attacca. La pacca ha del pepe il brucior, della fiamma il calor che s'accende nel cuore. La pacca.